Dal mondo della scuola, programma a cura dell'ufficio di pastorale scolastica. Bentrovati a questo nuovo appuntamento settimanale con il mondo della scuola. Mirko Cavallini studio in regia di Daici, nuovo ospite. Ogni settimana una voce diversa, questa volta è quella del professor Francesco Tessotto, dirigente dell'Istituto Madonna del Grappa di Treviso. Bentornato. Buonasera, grazie. Grazie Francis per la presenza. Per parlare di un documento importante, è la carta programmatica del coordinamento interdiocesano scuole cattoliche. Facciamo un passo alla volta. Sì. Per chi non è del settore, che cos'è il coordinamento interdiocesano delle scuole cattoliche? Il coordinamento è una realtà voluta dal vescovo Mazzoccato. Penso sia un'esperienza abbastanza originale, nel senso che non ci sono realtà simili in giro. È il tentativo di mettere insieme le scuole cattoliche su una forma di collaborazione, ma una collaborazione più ideale che non operativa, cioè mettere le scuole cattoliche in dialogo tra di loro e costringerle a darsi una identità propria e presentarsi al territorio come scuola cattolica. Quindi superare una modalità che è abbastanza normale e anche legittima per un verso, la modalità di farsi concorrenza vicendevolmente, ma per trovare invece forza dallo stare insieme. Ci sono e sono sempre esistite le associazioni che riuniscono le scuole cattoliche, per esempio la FISM per la scuola materna, la FIDAE per le scuole elementari, medie e superiori, l'associazione dei genitori, la FICAP per la formazione professionale. Il coordinamento mette insieme invece tutte le scuole indipendentemente dalla loro sigla, dalla loro associazione. Quindi è un organismo ecclesiale che però deve avere delle ricadute anche sull'operatività e sull'efficacia, sull'efficienza e sulla visibilità anche delle scuole cattoliche. Interdiocesano tra quali diocesi? Diocesi di Treviso e di Vittorio Veneto, per cui in pratica si copre il territorio della provincia di Treviso con qualcosina, un pochettino, San Donà, eccetera, anche fuori provincia. Sì, esatto, perché la diocesi di Treviso tocca anche quella zona. Carta programmatica, dunque, che è di recente approvazione. Beh, la revisione di recente approvazione, perché subito il coordinamento si è dato come impegno quello di stilare un documento di identità, ecco, dichiarare che cosa si è. Per cui un gruppo di lavoro ha stilato una carta programmatica che elencava un pochettino i principi che reggono la scuola cattolica e che reggono il nostro stare insieme. Dall'anno scorso abbiamo sentito la necessità di rivedere la carta programmatica perché si voleva un po' attualizzarla, perché la prima carta programmatica era più una carta di principio, quindi parlava dei valori, parlava dei massimi sistemi. Poco parlava invece dell'operatività della scuola cattolica. Si è sentito invece l'esigenza di trasferire quei principi in aspetti anche operativi di quotidianità, di didattica, perché la scuola deve fare scuola, cioè la scuola non è solo una dichiarazione di intenti, la scuola deve operare. E allora la volontà dall'anno scorso è stata quella proprio di fare una revisione che cercasse di identificare qual era la peculiarità della scuola cattolica, quale contributo la scuola cattolica può dare al territorio e quale contributo può dare anche ai singoli alunni che la frequentano, proprio in quanto scuola e in quanto cattolica. La precedente, la prima versione, a quando risale? Vado a memoria, ma risale a circa 5 anni fa. Quindi, insomma, non era vecchissima, ma già aveva bisogno. Appena era stato costituito il coordinamento, sì, pochi mesi dopo. Insomma. L'identità, appunto, dire chi si è, una specie di costituzione, insomma, sì. La carta programmatica. Costituzione, ma anche indicazione di percorso. Anche regolamento attuativo, quasi, usando sì, un termine giuridico. Sì. Allora, la scuola cattolica, dovendo proprio esporlo per punti, come viene definita? Beh, è scritto appunto nella carta programmatica e si divide sostanzialmente in due parti. La prima parte è quella dell'identità, la seconda è quella dell'aspetto più operativo. Per quanto riguarda l'identità, la scuola cattolica si definisce come soggetto, quindi soggetto vuol dire ente che ha dei diritti, ma anche una personalità, una visibilità, un soggetto sociale, culturale ed ecclesiale. Si punta molto sull'aspetto culturale e sociale, senza tralasciare l'aspetto ecclesiale, perché noi riteniamo che molto spesso la scuola cattolica venga vista soprattutto come soggetto ecclesiale. In realtà, nella storia e anche oggi, la scuola cattolica svolge una funzione culturale e sociale molto importante. Culturale perché tiene viva la cultura. La scuola è un ente che lavora sulla cultura. Dopo non fa propriamente alta cultura, trasmette la cultura, ma nel trasmettere la cultura anche tiene viva la cultura. E quindi è un ente culturale, un soggetto culturale importante. È anche un soggetto sociale perché la scuola cattolica si inserisce nel tessuto sociale e svolge anche una funzione sociale. Il fare scuola è una delle principali azioni di carattere sociale che si possano fare, perché va a incidere sulle giovani generazioni, forma le menti di domani, forma la forza lavoro di domani. E poi bisogna tener conto che anche ha un ruolo sociale, soprattutto nei livelli più bassi come età. Ecco, per esempio scuola materna, scuola dell'infanzia e scuola primaria, in quanto svolge anche un ruolo sociale di aiuto alle famiglie non indifferente. Quindi la carta programmatica vuole rivendicare questi due ruoli che di solito vengono un po' trascurati, e per ribadire appunto che la scuola cattolica è un soggetto a pieno titolo che compete, cammina, lavora assieme ad altri soggetti in campo sociale, in campo culturale e anche in campo ecclesiale, perché la scuola cattolica, si sa, è riconosciuta anche dai documenti ufficiali della Chiesa come ente ecclesiale. E di questo parleremo allora tra poco, dopo una breve pausa approfondiremo anche altri aspetti. Dal mondo della scuola, programma a cura dell'Ufficio di Pastorale Scolastica. Eccovi, sai, ti stavo proprio aspettando. Ero qui, ti aspettavo da tanto tempo, tanto che stavo per andarmene e invece ho fatto bene. Sei primo mio pensiero che al mattino mi sveglia, l'ultimo desiderio che la notte mi culla. Sei la ragione più profonda di ogni mio gesto, la storia come tu sia riuscita a prendermi dal mio sonno, scuotermi e riattivarmi il cuore. Sei il primo mio pensiero che al mattino mi sveglia, l'ultimo desiderio che quando mi sei mancata, speravo tu esistessi. Dal mondo della scuola, programma a cura dell'Ufficio di Pastorale Scolastica. Di nuovo insieme con questa puntata Dal mondo della scuola con il professor Francesco Tessotto, dirigente dell'Istituto Madonna del Grappa di Treviso. Stiamo approfondendo, scorrendo alcuni contenuti della carta programmatica delle scuole cattoliche. Abbiamo parlato prima dell'identità della scuola, soggetto ecclesiale, certamente soggetto sociale e culturale, e poi c'è anche l'aspetto operativo. Soprattutto l'aspetto operativo. Perché non bisogna dimenticare, appunto, come dicevo prima, che la scuola deve fare scuola. Non basta dichiararsi, bisogna poi lavorare e operare. Allora, nella carta programmatica si analizzano un pochettino, naturalmente in sintesi perché è un documento sintetico, ma si analizzano le funzioni della scuola cattolica. La funzione che viene rivendicata da sempre è quella della, ormai è diventato un modo di dire, della formazione integrale della persona. Cioè è sempre stata un'attenzione della scuola cattolica quella di non trascurare l'aspetto educativo, sempre nel fare scuola, facendo scuola. In questo la scuola cattolica nei decenni scorsi è stata molto criticata perché ha avuto seguito una corrente di pensiero che diceva che bisognava lasciare ad altri enti, la famiglia, per chi la frequenta la parrocchia, comunque ad altri enti l'aspetto educativo, mentre la scuola doveva essere asetticamente la trasmissione di cultura, di conoscenze, di istruzione. Ecco, la scuola cattolica invece ha sempre ribadito che è importante integrare l'istruzione con l'educazione, perché non è pensabile istruire senza educare. L'istruzione è un'educazione della mente, si educa il senso critico, si educa l'autonomia, eccetera. Insomma, non voglio fare un trattato di pedagogia, ma è stato sempre uno degli elementi fondamentali ribaditi anche in periodi difficili e non sospetti dalla scuola cattolica. Oggi si riconosce alla scuola, a tutta la scuola, anche i documenti del Ministero, anche alla scuola statale, una funzione educativa. Tant'è vero che la scuola viene chiamata a svolgere un lavoro importante nella cosiddetta emergenza educativa di cui si sta parlando, e la scuola viene vista come un interlocutore privilegiato anche di altre istituzioni. A volte, scusa, permettimi, a volte anche come supplente, perché quelli a cui prima si diceva di demandare l'educazione, penso alla famiglia come primo, poi chiede aiuto alla scuola. Chiede per tanti aiuto aspetti. Alla scuola, sì. E a volte la scuola è stata, anche in anni in cui non si parlava di educazione nella scuola, è stata investita di un ruolo educativo a volte anche debordante, per cui veniva scaricato nella scuola tutto, e allora l'educazione alimentare, l'educazione stradale, l'educazione della salute, l'educazione, tutti i tipi di educazioni venivano demandati alla scuola, anche per aspetti che potevano essere svolti da altre istituzioni, da altre realtà, per cui si è giocato molto sul fatto anche di delegare alla scuola, sia da parte della società, sia da parte della famiglia, di delegare alla scuola tutto, con una contraddizione per cui si diceva la scuola deve solo istruire, ma di fatto veniva caricata di tutto il resto. La scuola cattolica ha sempre dimostrato invece di avere a cuore la formazione integrale, per cui sempre nella sua storia, anzi le scuole cattoliche sono nate soprattutto per questo, nella sua storia la scuola cattolica ha dimostrato di voler mettere insieme l'istruzione come via necessaria per l'affrancamento dalla povertà intellettuale, dalla miseria morale molto spesso, ecco, l'istruzione con l'educazione, per cui varie iniziative, anche di, per esempio il tempo pieno è nato nella scuola cattolica di fatto, come un'esigenza proprio di dare un contributo forte all'educazione attraverso l'istruzione. In questo documento, nella carta programmatica, si ribadisce questo aspetto, ma si vuole fare di più. Il passo originale della carta programmatica è quello di voler indicare una strada per trasferire l'attenzione educativa nella didattica. Mi spiego. Cioè, molto spesso la scuola cattolica viene vista come una scuola attenta alla persona, ma attenta alla persona più per gli aspetti di relazione, ti voglio bene, ti accolgo, ti accolgo con un sorriso, ti chiamo per nome, ti consolo quando sei triste, eccetera. Tutti aspetti relazionali importantissimi, soprattutto nell'età evolutiva, ma che non esauriscono il compito della scuola. La scuola non è l'assistente sociale, non è neanche uno psicologo. È vero che la scuola deve gestire la relazione al proprio interno, ma non può limitarsi a questo. Allora, in questo documento si è voluto individuare e indicare una strada a tutte le scuole cattoliche per trasferire l'attenzione educativa nella didattica, e l'indicazione è quella di prendere la strada della didattica personalizzata. Adesso forse non è il caso di addentrarci sui particolari, ma ripeto, è il tentativo di trasferire nella didattica, cioè nel fare scuola, nel far apprendere ai ragazzi, l'attenzione educativa. Sappiamo che si può insegnare in tanti modi, si può apprendere in tanti modi, si possono ottenere buoni risultati scolastici in tanti modi. La didattica personalizzata è la volontà di ottenere buoni risultati scolastici attraverso una didattica che sia rispettosa però della persona del docente e della persona dell'alunno. Allora, anticipiamo l'ultima pausa per poi addentrarci ancora di più su questo aspetto, e poi proverò anche a fare un po' l'avvocato del diavolo. A tra poco. Dal mondo della scuola. So sad, the tears are in your eyes. Come on and come to me now. Don't be ashamed to cry. Let me see you through, 'cause I've seen the dark side too. When the night falls on you, you don't know what to do. Nothing you confess could make me love you less. I'll stand by you. I'll stand by you. Won't let nobody hurt you. I'll stand by you. So if you're mad, we'll be right back. Ultima parte per questa puntata dal mondo della scuola con il professor Francisco Tessotto. Stiamo parlando di alcuni contenuti della carta programmatica predisposta, rivista l'anno scorso dal coordinamento interdiocesano delle scuole cattoliche. L'attenzione educativa nella didattica ci aveva introdotto a questo tema, cioè a come gli insegnanti insegnano e come gli alunni apprendono, sì. Perché sono sempre due... Una dinamica di apprendimento e insegnamento che renda protagonisti e rispetti la dignità degli insegnanti e degli alunni. Può sembrare una parolona, però nel momento in cui io costringo un alunno a imparare, non rispetto la sua dignità. Rispetto la sua dignità se lo motivo ad imparare. Ecco, la didattica personalizzata lavora su questi meccanismi. E i ragazzi come vengono coinvolti invece per quanto riguarda la loro parte? I ragazzi sono coinvolti nel senso che se si applica correttamente la didattica personalizzata c'è un'attenzione particolare nei loro confronti e vengono resi anche protagonisti, cioè si adottano delle metodologie che, in cui il protagonista non sia solo l'insegnante ma siano anche i ragazzi. Una metodologia, ma non l'unica, è il cosiddetto cooperative learning, cioè l'apprendimento cooperativo, in cui l'insegnante guida l'apprendimento, ma non è l'unico soggetto all'interno dell'aula, ma il soggetto diventano gli alunni. E altre modalità di coinvolgimento, di attenzione. Nasce la didattica personalizzata dall'idea che non è vero che solo facendo fare tantissima fatica si possono ottenere dei risultati. La fatica è necessaria per imparare, però non bisogna esagerare nel far fare eccessiva fatica. Nel momento in cui io riesco a motivare i ragazzi imparano, forse imparano anche di più e meglio, facendo anche meno fatica. Uh-huh. E con più voglia. E con più voglia. Abbiamo disegnato, insomma, tratteggiato alcuni elementi, diciamo, ideali che propone la carta programmatica, ma ovviamente poi la realtà non ci propone spesso un quadro ideale né idilliaco, non è che quelli che vanno alla scuola cattolica, né i professori, né i docenti, né gli alunni siano migliori di altri, no? Non so dire se per fortuna, per sfortuna, eccetera. È naturale che i nostri alunni e gli insegnanti siano alunni e insegnanti come altri alunni e altri insegnanti. Noi non... mi viene un verbo un po' improprio, noi non andiamo a battezzare i nostri alunni, non facciamo lo screening perché prima che entrino nella nostra scuola. La scuola cattolica opera nel territorio, nella realtà in cui si trova ad operare. Anche qui c'è un cambiamento nell'idea di scuola cattolica, cerco di formularlo anche se il concetto è un po' forse difficilino. Io ho frequentato la scuola cattolica e quando i miei genitori mi hanno iscritto, la scuola ha preteso dai miei genitori che loro presentassero il loro certificato di matrimonio in chiesa e il mio certificato di battesimo. Perché l'idea era quella che la scuola cattolica era la scuola dei cattolici. Oggi l'idea è diversa. Oggi la scuola si pone più, la scuola cattolica, più, usiamo questo termine, laicamente nei confronti del territorio, nei confronti delle persone. Cioè non è più la scuola dei cattolici, ma è la scuola che fa una proposta formativa a tutti per lo sviluppo e per la promozione della persona in virtù di una sua idea di uomo, che è quella che ricava dal Vangelo, ma che è un'idea di uomo che vale per i cattolici, ma vale anche per i non cattolici. Se io nel Vangelo leggo la parabola del Samaritano, l'aiuto al prossimo, io da cattolico lo vedo come un aiuto a chi è mio fratello, ma può essere visto da chiunque come un valore sociale importante e quindi posso educare all'aiuto al prossimo che sia cattolico o che non sia cattolico. Io lo ricavo dalla mia fede e lo dichiaro, però mi rivolgo il mio insegnamento a chiunque. Ecco, si sta un po' in questi anni capovolgendo proprio l'idea di scuola cattolica, per cui non è più la scuola dei cattolici che devono necessariamente essere cattolici apostolici romani, per esempio, è abbastanza, sta diventando sempre più diffuso, soprattutto in certi ordini di scuola, penso alla formazione professionale, ma non solo, la frequenza di ragazzi di altre religioni. Ma non è solo nella formazione professionale, io sia nella scuola media sia nel liceo ci sono dei ragazzi ancora in numero ridotto, comunque ci sono dei ragazzi di religioni diverse. Ma poi, senza andare alle religioni diverse, sappiamo che la convinzione e l'adesione alla fede anche di quelli che si dichiarano cattolici oggi è molto più bassa di una volta. Se noi dovessimo rivolgerci solo a quelli che le vanno famiglie in chiesa, regolari, a quelli che vanno in chiesa, faremmo fatica a sopravvivere. Questo è effettivamente è vero. I ragazzi dunque di ogni ordine, anche loro rappresentano, come dicevi, la società, la nostra società. Poi nel nostro Veneto è sempre più composita, sia come storia di famiglie, pensiamo al dramma delle separazioni che poi hanno anche la cronaca di queste ultime settimane ce l'ha insegnato, fortissima influenza sui ragazzi. Per completare, non per rimettere una ciliegina sopra, ma poi credo che succeda più spesso nella scuola cattolica che uno se ne ricordi a distanza di anni, magari. Sì. Magari durante gli anni, magari forse non l'apprezza tantissimo, però... Ma questo, devo dire, per carità, mai chiedere all'oste se il vino è buono. Certo. Io parlo in maniera del tutto parziale, ma cerco di essere obiettivo. Io vedo che si è trasformata un pochettino la cosa. Una volta c'era questa idea che me ne ricorderò quando sarò più grande, ma intanto maledico la scuola. Perché la scuola cattolica si era caratterizzata, fino a qualche decennio fa, per essere la scuola rigida. La scuola rigida, il collegio, guarda che se non righi dritto ti mando dalle suore sì. Ti mando dai preti. Oggi è molto cambiato il clima all'interno della scuola cattolica, anzi direi che, non dico tutti, però molto spesso i ragazzi vivono bene il fatto di andare a scuola, di frequentare le nostre scuole, e questo è l'aspetto che a noi sta molto a cuore, perché vuol dire che abbiamo trasferito nel clima scolastico la nostra idea educativa e di accoglienza. Un ultimo cenno proprio al problema linguistico, che poi la cultura ci vuole tempo appunto per cambiarla, e anche la mentalità. La scuola è soggetto ecclesiale, l'abbiamo detto prima, lo dice la carta programmatica. La scuola è confessionale, sono due sinonimi, possiamo sovrapporli, bisogna distinguere? Ma è un po' difficile questo discorso, perché se io guardo i documenti, la scuola è confessionale, perché i documenti ufficiali della Chiesa riconoscono alla scuola cattolica l'essere Chiesa. Essere Chiesa però nel mondo, cioè è in una posizione, diciamo, di confine, un po' come quello che viene richiesto al laicato, cioè viene richiesto di innervare di grazia il mondo, usando termini molto elevati. Comunque, una volta, quando dico una volta, io sono nella scuola cattolica da 36 anni, quindi quando ho cominciato a lavorare nella scuola cattolica, effettivamente la scuola cattolica era molto più ecclesiale, cioè si dimostrava come una scuola confessionale, pretendeva di essere confessionale, e i genitori scrivevano i loro figli perché era scuola confessionale. Oggi è una scuola che dichiara la propria identità, per cui non rinnega il fatto di essere cristiana, ma lavora per essere un messaggio rivolto a tutti e non solo all'interno della scuola, all'interno della Chiesa. E penso che in questo senso stia interpretando correttamente proprio il messaggio della Chiesa, soprattutto quello che viene dopo il Concilio. Ci torneremo magari nel secondo quadrimestre, sì. Ovviamente, quindi grazie al professor Francisco Contessotto per la presenza e buon lavoro. A voi, grazie. L'appuntamento con la scuola torna fra 7 giorni, grazie per averci seguito. Dal mondo della scuola, programma a cura dell'Ufficio di Pastorale Scolastica.